Ad alta voce, Marco Foschi legge Gioventù senza Dio di Eugen von Horvath, traduzione di Bruno Maffi. La peste. Quella sera non riuscii ad andare a letto. Davanti ai miei occhi danzava il foglio di carta stenografata. Sì, mi vogliono annientare. Se fossero dei selvaggi, mi avrebbero legato al palo di tortura e scotennato. E lo avrebbero fatto in buona fede. Sono convinti di aver ragione. Che banda di manigoldi. O sono io che non li capisco? A 34 anni sono forse troppo vecchio per loro. Il fossato che ci divide è forse più profondo che fra due generazioni normali. Oggi credo che sia insormontabile. Il fatto che questi ragazzi rinneghino tutto ciò che per me è sacro non sarebbe la cosa più grave. Grave è il modo come lo rinnegano, cioè senza conoscerlo. Ma il peggio è che non vogliono neppure conoscerlo. Odiano qualunque pensiero, se ne infischiano dell'uomo. Vogliono essere delle macchine, delle viti, delle ruote, delle bielle, o meglio ancora delle munizioni, bombe, shrapnel, granate. Con che gioia creperebbero su un qualsiasi campo di battaglia. Il sogno della loro pubertà è il nome su un monumento ai caduti. Ma un momento, non è una grande virtù questa accettazione del sacrificio supremo? Certo, se la causa è giusta, ma nel nostro caso, di che causa si tratta? Il giusto è ciò che giova alla tribù, dice la radio. Quello che non ci dà un utile è ingiusto, quindi tutto è permesso. Il furto, il delitto, l'incendio, lo spergiuro. Che cosa dico permesso? Non sono più neanche delitti se compiuti nell'interesse della tribù. E questo che cos'è? Il punto di vista del criminale. Quando nell'antica Roma i ricchi plebei temettero che il popolo riuscisse a imporre la riduzione delle imposte, ricorsero alla dittatura. Condannarono a morte per alto tradimento il patrizio Manlio Capitolino perché con le sue ricchezze voleva scarcerare i debitori e lo precipitarono dalla rupe Tarpea. Da quando esiste, la società umana non può, per ragioni di conservazione, rinunciare al delitto. Ma almeno i delitti si tacevano, si nascondevano, se ne provava vergogna. Oggi ne siamo fieri. È una peste di cui siamo tutti ammalati, amici e nemici. Le nostre anime sono piene di ulcere nere e presto moriranno. Continueremo, sì, a vivere, ma saremo morti. Anche la mia anima si è infiacchita. Quando leggo sui giornali che uno di costoro è morto, penso, non basta, non basta. Oggi stesso non ho forse pensato, magari crepaste tutti. Ma non voglio continuare a pensare. Mi lavo le mani e vado al caffè. E lì, almeno, c'è sempre qualcuno che gioca a scacchi. Fuori di qui, aria. I fiori, regalo della padrona di casa per il mio compleanno, sono ormai appassiti. Via, all'immondezzaio. Domani è domenica. Al caffè non c'è nessuno che conosca. Nessuno. Che fare? Vado al cinema. Nel documentario sfilano i plebei ricchi, inaugurano le proprie statue, danno il primo colpo di piccone, fotografano la sfilata delle loro guardie del corpo e segue un topo che sbaraglia dei gatti e infine un film poliziesco con molti colpi di rivoltella per far trionfare la virtù. Quando esco è notte, ma non rincaso. Ho paura della mia camera. Vedo un bar. Se non è troppo caro, entrerò a bere qualcosa. Non è caro. Entro. Una donnina mi offre la sua compagnia. Solo? Sorrido. Ahimè. Sì. Posso sedermi? No, grazie. La donna si allontana, offesa. Non irritarti, non volevo offenderti, ma sono solo. L'era dei pesci. Bevuto il sesto bicchiere, mi sorpresi a pensare che si dovrebbe inventare un'arma capace di rendere inoffensive tutte le altre. Insomma, il contrario di un'arma. Se fossi un inventore, quante cose inventerei. Come sarebbe felice il mondo. Ma non sono un inventore. E se non fossi nato, che cosa avrebbe perso il mondo? Che cosa direbbe il sole? Chi dormirebbe nella mia camera? Non fare domande sciocche. Sei ubriaco. Sei qui, sulla terra. Che cosa vuoi di più? Quando non sai neppure se non nascendo la tua camera e il tuo letto esisterebbero. Forse il tuo letto sarebbe ancora un albero. Ma non ti vergogni di far simili domande. Come un adolescente travagliato dalla pubertà, lascia stare l'ignoto e ordina piuttosto un altro bicchiere. Bevo. Signori e signore, non amo la pace. Auguro a tutti la morte. Non una morte semplice, no, una morte complicata. Bisogna ristabilire la tortura, sì, la tortura. Non si estorceranno mai abbastanza confessioni perché l'uomo è cattivo. Dopo l'ottavo bicchiere rivolsi al pianista un piccolo saluto amichevole, nonostante che fino al sesto la sua musica mi fosse molto spiaciuta. Non mi ero accorto che davanti a me stava un uomo e che quest'uomo mi aveva già ripetutamente rivolto la parola. Allora lo guardai e lo riconobbi. Era il nostro Giulio Cesare, un tempo mio stimato collega e professore di filologia in un liceo femminile. Era stato coinvolto in una faccenda piuttosto sporca. Aveva avuto una relazione con una minorenne e l'avevano messo dentro. Per molto tempo non si era visto e poi un giorno seppi che girava di porta in porta vendendo cianfrusaglie. Portava una grossa spilla da cravatta con una testa da morto e infilata in questa una lampadina collegata a una batteria che teneva in tasca. Quando premeva un piccolo bottone elettrico, le orbite della testa da morto si illuminavano di rosso. Erano i suoi scherzi. Un vero e proprio rottame. Non so più come avvenne, ma ad un tratto me lo trovai lì accanto. Iniziammo un'accalorata discussione. Sì, ero ubriaco e della conversazione non ricordo che brandelli. Giulio Cesare dice: caro collega, quello che mi racconta non è che un sacco di idee abborracciate. Era tempo che si intrattenesse con un uomo che non ha più nulla da sperare e perciò segue con occhio implacabilmente lucido l'evolversi dei tempi. Lei e io, caro collega, siamo, secondo Adam Riese, due generazioni e i monellacci della sua classe sono anch'essi una generazione, per cui, secondo Adam Riese, costituiamo insieme tre generazioni. Io ho 60 anni, lei circa 30, i Monelli circa 14. Attento. Le esperienze della pubertà influiscono spesso in modo decisivo sul corso di tutta la vita, specie nei soggetti di sesso maschile. Ah, non mi secchi, dico io. Anche se l'annoio, la prego di ascoltarmi, altrimenti mi arrabbio. Dunque, il solo problema importante della pubertà per gli uomini della mia generazione era la donna. Voglio dire, la donna, che non era nostra. Perciò l'esperienza decisiva della nostra giovinezza a quell'epoca era la soddisfazione solitaria con tutte le manifestazioni che l'accompagnavano, soprattutto la paura delle conseguenze deleterie per la salute, paura che doveva rivelarsi molto più tardi, ahimè, del tutto assurda. In poche parole, abbiamo inciampato nella donna per scivolare nella guerra mondiale. Ma all'epoca della sua pubertà, mio caro collega, la guerra era in pieno sviluppo. Gli uomini erano assenti e le donne più facili. Lei e i suoi compagni non ebbero bisogno di rivolgersi alle loro personali risorse. Il sesso debole, affamato, si precipitò sul vostro cuore in germoglio. Per la vostra generazione la donna non era più una santa. Quindi non riuscite più a soddisfarvi, perché nel profondo di voi stessi continua a vivere la nostalgia di ciò che è puro, augusto, inaccessibile. In altre parole, la soddisfazione solitaria. In questo caso, le donne inciamparono in voi giovani e scivolarono nella mascolinità. Mio caro collega, lei è un erotomane. Perché? Perché considera tutto l'universo sotto il punto di vista sessuale. E questa è vero una tipica caratteristica della sua generazione, soprattutto alla sua età, ma non rimanga continuamente a letto, si alzi, apra le tendine e lasci entrare la luce, guardi fuori. E che cosa si vede fuori? Niente di bello, è vero. Tuttavia, mi sembra un romantico mascherato lei. La prego, non mi interrompa più. Si sieda. Arriviamo alla terza generazione, agli attuali quattordicenni. Per loro la donna non è più un problema, visto che non ci sono più vere donne, ma mostri che vanno a scuola, remano, fanno ginnastica, sfilano al passo. Ha osservato come le donne sono sempre meno attraenti? Lei è settario, ma chi si può entusiasmare di una Venere col sacco in spalla? Non certamente io. Sì, la disgrazia della gioventù d'oggi è che non ha più una vera e propria pubertà. L'amore, la politica, la morale, eccetera, eccetera, sono stati mescolati tutti nella stessa pentola. Inoltre, troppe sconfitte sono state celebrate come vittorie. Troppo spesso i più intimi sentimenti della giovinezza sono stati sfruttati da stregoni. Mentre dall'altra parte tutto è diventato facile e basta trascrivere quello che dice la radio per ricevere dei buoni voti. Ma, grazie a Dio, ci sono anche delle eccezioni. Quali eccezioni? Si guardò intorno sospettoso, si chinò verso di me e disse a bassa voce: conosco una signora che ha un figlio al liceo. Si chiama Roberto e ha 15 anni. Ultimamente ha letto di nascosto un certo libro. No, niente di erotico. Un libro nihilista. Si intitola «Della dignità dell'esistenza umana ed è proibito». Ci guardammo. Bevemmo. Dunque, crede che qualcuno di loro legga di nascosto? Lo so per certo. Da quella signora si riunisce una quantità di gente. Spesso è completamente fuori di sé. I ragazzi leggono tutto, ma leggono soltanto per poterne ridere. Vivono in un paradiso di stupidità e il loro ideale è il sarcasmo. Andiamo verso tempi freddi, verso l'era dei pesci. Dei pesci? Non sono a dire il vero che un dilettante astrologo, ma la Terra gira nel segno dei pesci. E l'anima dell'uomo diventerà impassibile, come il muso di un pesce. È tutto ciò che mi ricordo del mio lungo colloquio con Giulio Cesare. Ricordo anche che mentre parlava accendeva con insistenza la testa da morto, certo per irritarmi, ma non ci riuscì, sebbene fossi orrendamente ubriaco. Ed ecco, mi sveglio in una stanza sconosciuta. Giaccio in un letto che non è il mio. È buio e odo un respiro. È una donna. Dorme. Sei bionda, bruna o rossa? Non ricordo. Che faccia hai? Devo accendere? No. Dormi pure. Mi alzo con precauzione e mi avvicino alla finestra. È ancora notte. Non vedo niente, né case, né strade. Soltanto la nebbia. La luce di un fanale lontano cade sulla nebbia e le dà l'apparenza dell'acqua, come se la mia finestra fosse sommersa. Non guardo più fuori, altrimenti i pesci verranno a incollarsi ai vetri e guarderanno dentro. Quando l'indomani mattina rincasai, la padrona di casa mi aspettava, era agitatissima. «C'è un signore che l'aspetta da 20 minuti, l'ho fatto entrare in salotto. Dov'è stato?» «Da amici, abitano fuori città, ho perduto l'ultimo treno, ho passato la notte in casa loro.» Entrai in salotto. Un uomo piccolo e umile stava vicino al pianoforte. Sfogliava uno spartito. Non lo riconobbi subito. Aveva gli occhi rossi. «Ha vegliato troppo», pensai. Ha pianto. «Sono il padre di W», mi disse. «Signor professore, è necessario che lei mi venga in aiuto. È successo qualcosa di terribile. Mio figlio sta per morire.» «Come?» «Sì. 8 giorni fa allo stadio, durante la partita di calcio, ha preso terribilmente freddo e il medico dice che solo un miracolo può salvarlo. Ma non ci sono miracoli, signor professore. Sua madre non sa ancora niente, non ho osato dirglielo. Mio figlio non ha più che rari momenti di lucidità e in quei momenti chiede con insistenza di vedere qualcuno.» «Me?» «No, non lei, signor professore. Vorrebbe vedere il giocatore di domenica, il portiere. È stato così bravo. È il suo eroe. E ho pensato che forse lei sa dove trovarmelo, questo portiere, forse... a pregarlo di venire.» «So dove abita», risposi. «E gli parlerò. Lei vada pure a casa. Le condurrò il portiere.» Uscì. Mi vestii in fretta e uscii anch'io. Su, dal portiere. Non abita lontano. Conosco il negozio di articoli sportivi di sua sorella. Siccome è domenica, il negozio è chiuso, ma il portiere abita nella stessa casa, al terzo piano. Sta facendo colazione. La stanza è piena di trofei. Si dice pronto a seguirmi. Non finisce neppure di mangiare e corre giù per le scale. Prende un tassì che rifiuta di lasciarmi pagare. Il padre di W ci aspetta sulla porta. Sembra ancora più piccolo. «Non è più in sé», dice a bassa voce. «C'è il medico, ma entrino ugualmente, prego. La ringrazio di cuore.» La camera del ragazzo è semibuia. In un angolo c'è un grande letto dove è coricato. Ha le guance di fuoco e mi accorgo che è il più piccolo della classe. La madre anche è piccola. Il portiere sta in piedi davanti al letto, imbarazzato. Davanti a lui giace uno dei suoi più fervidi ammiratori. Uno dei mille e mille che lo acclamano, gridano, conoscono la sua biografia, sollecitano autografi, si accalcano alla sua porta e che egli deve continuamente fare allontanare dalle guardie. Siede in silenzio vicino al letto e lo guarda. La madre si china. «Enrico», dice, «c'è il portiere.» L'ammalato aprì gli occhi e vide l'uomo. «Magnifico», sorrise. «Sono venuto perché desideravi vedermi», disse il portiere. «Quando giocherai contro l'Inghilterra?» chiese il ragazzo. «Dio solo lo sa. Stanno discutendone in federazione e le superiori autorità se ne occupano. Ci sono difficoltà per la data. Credo che prima giocheremo contro la Scozia.» «Contro la Scozia è più facile.» «Ah, gli scozzesi sparano delle tremende cannonate e da tutti i punti del campo.» «Racconta, racconta.» E il portiere raccontò. Parlò di vittorie famose e di sconfitte immeritate, di arbitri severi e di guardalinee venali. Si alzò, costruì una porta con 2 sedie e spiegò come una volta si fosse difeso da 2 attaccanti. Mostrò la cicatrice sulla fronte, ricordo di Lisbona, e parlò di paesi lontani dove aveva difeso la sua fama, dell'Africa, dove i beduini assistevano alle partite col fucile a fianco, e della bella isola di Malta, dove disgraziatamente il campo era di pietra. E mentre parlava, il piccolo W si addormentò con un sorriso beato, calmo, tranquillo. Fu sepolto un mercoledì, alle 2 del pomeriggio. Il sole di marzo splendeva. Pasqua non era lontana. Eravamo attorno alla tomba aperta, dove era già stata calata la bara. C'era il preside e tutti gli altri professori, escluso quello di fisica, un originale. Il prete recitò l'orazione funebre. Il padre, la madre e qualche parente ascoltavano immobili. Di fronte a noi in semicerchio erano i compagni dello scomparso, i 25 scolari al completo. I fiori erano stati deposti sull'orlo della tomba. Su una bella corona legata da un nastro giallo e verde si leggeva «L'estremo saluto del tuo portiere». Mentre il sacerdote parlava del fiore che sboccia e si spezza, i miei occhi caddero su N. Stava dietro L, H e F. Lo osservai. Non un tratto del suo viso si muoveva. Ed ecco che a sua volta mi guardò. «È il tuo nemico mortale», pensai. «Ti giudica un corruttore. Guardati da lui quando sarà grande. Distruggerà tutto, anche le rovine della tua memoria. Ti vorrebbe vedere sottoterra. Vorrebbe disperdere anche la tua tomba perché nessuno sappia che sei vissuto. Non devi lasciar capire che indovini i suoi pensieri. Tieniteli per te, i tuoi modesti ideali. Altri uomini verranno dopo N, altre generazioni. Non credere, amico N, che sopravviverai al mio ideale. A me sì, forse». E mentre così pensavo, ebbi la sensazione che qualcuno mi guardasse. Era T. Sorrideva appena, con un'espressione di ironica superiorità. «Hai indovinato i miei pensieri?» Continua a sorridere, stranamente fisso. Due occhi chiari mi guardano tondi, senza vita, senza luce. Un pesce. Era la seconda puntata di Gioventù senza Dio di Odon von Orfat, nella traduzione di Bruno Maffi, letto da Marco Foschi per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio e Jacopo De Bertoldi e la regia di Riccardo Amorese, da riascoltare e scaricare in podcast da adaltavoce.rai.it. L'ultimo appuntamento con l'album del pomeriggio, Menigna, di Cristina Branco, ce lo avete chiesto e noi vi ricordiamo il nome di questa giovane cantante di Fado. È un album del 2016 e il brano è Boatos. Dizem por aí, desde o dia em que apareci, que não há um lar seguro na cidade. Muito patuá se ouve no salão de chá sobre o que que este sábio outro ouviu dizer. É o senhor doutor, é o juiz, é o prior, que não falta esses peitos das andanças. Tudo que é marido, pelos vistos eu persigo, até me chamam menina das alianças. Mas são camas grandes de mansões, apesar de ter um pobre apartamento na rua de São Brás, 27 quinto trás, onde o escândalo vem a acontecer. Homens bem casados, diz que esbanjam ordenados em floristas, joias, prendas e jantares. Agem sem alarde, mesmo quando chegam tarde, têm sempre um alibi para escapar. São boatos, são só boatos. Ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, de onde vim. São boatos, são só boatos. Todos falam, mas ninguém conhece os fatos. Não passam de boatos. Qual a verdade? O que é que importa? Se fico só quando chego o amanhecer, resta-me um pouco que me bate à porta. E se alguém me pergunta, são só boatos, ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, de onde vim. São boatos, são só boatos.